Sirico, tico, tuca, tico, lá. Sico, tico, tuco, cuca, si, mi, cutuca. Sirico, tica, cutuco, sirico, ti. Sico, tuca, ki, sirico, tico.